Questo è una copia. Di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia, di una copia. Mi svegli un altro giorno in questa casa sconosciuta, con questa tipa di fianco, dice amore, mi saluta. Lei dice il mio nome, dice di chiamarsi Anna, ma io non la conosco, questa stronza che mi inganna. Quindi penso solo sia la sbronza e scappo fuori. Quei vestiti troppo larghi per me, troppi colori. Un portafoglio con la canta somigliante col mio nome. La foto un somigliante, sembra un'allucinazione. Ma lo squillo al cellulare, ma pare che intercettare sia compare nella stessa situazione madornale. Ma è il nome che mi appare nella chiamata inoltrata. Mi dice che il mio socio ristorato è una figata, ma cazzata. Io non capisco un cazzo di sta musica, sono soltanto un uomo che vive una vita pudica. Ma ci sono questi adesivi con il mio nome, sono ovunque, non capisco questa assurda situazione. Questa è l'amnesia, sono perso in casa mia. Sento un suono dalle casse ma non so che cosa sia. Dicono che faccio rap per curarmi l'alchimia. Loro lo chiamano hip hop, questa è metrica poesia. Questa è l'amnesia, sono perso in casa mia. Sento un suono dalle casse ma non so che cosa sia. Dicono che sono fat perché è il nome che portavo prima di svegliarmi oggi, che non so come mi chiamo. Oh, è mezzogiorno, è solo un giorno come un altro. Io manco con niente, già qualcosa non mi quadra tanto. Al mio risveglio accolto dal bacio di un angelo. Non so che ho fatto, quel vuoto di whisky non può raccontarmelo. Pezzo di scatto e bestemmiando sclero. Ditemi chi sono, dove sono, ieri sera con chi cazzo ero. Mi trasco le chiavi di un'auto, che fiero. Parto in quarta, radio a palla e la mia voce che esce dallo stereo. E lì per lì non mi chiedo il perché né come. Distinto in bocco strade ma senza sapere dove. Queste mi porteranno vago e sfando senza direzione. Più che chiarire le parole fanno confusione. Fermo al semaforo, mi arriva uno, mi dice che culo. Stavo andando in studio, appena perso l'uno. Sale, poi dice andiamo, il è pronto e Mel ci sta aspettando. Non scherzo del cazzo, che merda, ci sto uscendo pazzo. Questa è l'amnesia, sono perso in casa mia. Sento un suono dalle casse ma non so che cosa sia. Dicono che faccio rap per curarmi l'alchimia. Loro lo chiamano hip hop, questa è metrica poesia. Ma questa è l'amnesia, sono perso in casa mia. Sento un suono dalle casse ma non so che cosa sia. Dicono che sono S perché è il nome che portavo prima di svegliarmi oggi, che non so come mi chiamo. Apro gli occhi, tutto intorno, tutto buio. Non è un sogno, sono solo, non ricordo dove sono. È mezzogiorno, premo sull'interruttore, casse mixer 8-9, penna e foglio, le pareti, gomma, fiume, il manicomio. Ma la porta sembra aperta, apro, esco e scappo via. Scendo giù per sto caruccio, per fortuna un'osteria. Entro dentro, ho gli sguardi su di me, sembran bruciati. Tutti gridano, io Mel, forse sono dei messicani. Sono spostati o sono io che non capisco. Mentre penso, c'ho la felpa che mi vibra e sento un trillo sullo schermo, ecco qua. Sì, ho cazzo di bruciato, vieni qua. Live inizia fra mezz'ora, qui c'è già mezza città. Corro là, troppa gente, troppo strana, troppo fuori. Si avvicina, me lo sai che fai cagare, non c'è tempo, sali e rima. Io non penso di sapere cosa dite o che farete. Wattel, F20, Overkill, che cazzo siete? Questa è l'amnesia, sono perso in casa mia. Sento un suono dalle casse ma non so che cosa sia. Dicono che faccio rap per curarmi l'alchimia. Loro lo chiamano hip hop, questa è metrica poesia. Ma questa è l'amnesia, sono perso in casa mia. Sento un suono dalle casse ma non so che cosa sia. Dicono che sono Mel perché è il nome che portavo prima di svegliarmi oggi, che non so come mi chiamo.